sei? Io sono cameriere della Carema, cucina Carema Besate, Parco del Ticino. Ok, che attività fa la cucina Carema? Prima cosa è un'azienda agricola di 36 ettari che è biologica certificata dal 1990, compresi gli allevamenti che sono molto diversificati perché abbiamo un allevamento bovini, suini, cinghiali, porcasti, oche, anatre, polle, faraone e anche carpa che alleviamo nella risaia come si faceva 100 anni fa. Come avete deciso di aderire all'idea, al logo, al network Critical Wine? L'idea è fantastica, l'idea è bellissima, non si può non sposare, è gestita insieme tra giovani, adulti, ce n'è di tutti i gusti e mi sembra che l'idea è vincente assolutamente. Avete mai pensato di allargare questa rete, questo network di produttori critici anche a livello al di fuori dell'Italia? Non so, mi viene in mente José Bové, non so, personaggi del genere. Assolutamente, si può allargare a tutto il mondo senza problemi, sempre che ci siano delle caratteristiche comuni che sono quelle di essere dei produttori artigianali, di prodotti tipici, di prodotti artigianali sicuramente, questa è la cosa fondamentale. Grazie mille.